America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. The United States will lead a diplomatic effort to work with Iraqi leaders and the countries in the region. Barack Obama, il presidente americano, ha annunciato ieri lo stanziamento di $500 milioni per addestrare forze moderate sunnite in Siria. La decisione ha colto un po' di sorpresa perché da una parte gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per il disarmo delle armi chimiche siriane con l'implicita ammissione che si terranno fuori dalle vicende interne, ma dopo quello che è capitato, dopo che i sunniti estremisti dalla Siria sono entrati in Iraq e hanno di fatto preso il controllo di un vasto territorio a cavallo dei due stati, ecco che gli Stati Uniti di nuovo intervengono, come sono intervenuti in Iraq, dove ieri c'è stato il primo volo di droni, dunque di aerei non pilotati da un essere umano, ma comunque in grado di attaccare e generare conseguenze letali sugli obiettivi militari. La vicenda resta molto complicata, molto pericolosa e resta comunque la vicenda che ha il maggior impatto sui mercati in questo momento. Le incertezze di Wall Street non sono dovute al fatto che l'economia ha rallentato per il primo trimestre, ma proprio per le incertezze nel teatro medio orientale. Oggi tuttavia non voglio parlarvi di politica o di economia, ma voglio parlarvi di sport. L'America ce l'ha fatta. Ecco di nuovo qualche registrazione che ho raccolto per strada. Devo dire che non mi era successo di vedere, come mi è capitato di vedere ieri, su Stone Street, su Pine Street, insomma in queste strade downtown nella zona di Wall Street, così tanta gente come si è vista ieri. Erano attaccati davanti ai televisori per strada, i bar che non potevano più ospitare gente perché erano già pieni di centinaia di persone, avevano messo dei televisori sulle loro vetrate, dunque c'era una gran quantità, una gran folla, c'erano persino i lavoratori che lavoravano ai progetti municipali con queste loro casacche arancioni, con questi loro caschi, anche loro fermi lì a vedere il finale di questa partita che ha qualificato gli Stati Uniti pur con un risultato negativo, perché l'America ha perso per 1-0 contro la Germania. Ma l'importante era passare, perché era qualche tempo che gli Stati Uniti non riuscivano a entrare negli ottavi di finale. E dunque, anche se la strada è molto difficile, gli Stati Uniti adesso dovranno battersi contro il Belgio, resta pur sempre una vicenda che, devo dire, non è mai stata sentita così forte come in questa Coppa del Mondo. Ecco, e allora veniamo ai numeri. Perché insisto sulla Coppa del Mondo? Perché, come sappiamo, il calcio, o comunque lo sport, è un aspetto molto importante dell'economia. Una Coppa del Mondo può fare o non fare il futuro di una squadra, di un giocatore, di un paese. E per gli Stati Uniti la partita è molto importante. Perché? Perché il calcio è sempre rimasto indietro rispetto alla cosiddetta concorrenza, rispetto al football, al baseball, al basketball e persino al hockey su ghiaccio. Ebbene, che cosa è successo in questi giorni? È successo che dalle statistiche che abbiamo potuto rilevare, 15,9 milioni di americani hanno visto la prima partita Stati Uniti contro il Ghana. Nella partita contro il Portogallo si è arrivati addirittura a 24,7 milioni di americani, e questa è stata la partita di calcio più vista nella storia degli Stati Uniti. Non abbiamo ancora le statistiche di ieri, ma sono sicuro che, nonostante l'orario non fosse agevole, vabbè, era a cavallo di pranzo, comunque a cavallo di colazione, e sono sicuro che probabilmente questo livello di 24,7 milioni è stato battuto. Ecco, c'è una componente economica molto importante. Perché? Perché pensate che l'ultima partita nelle finali dell'NBA, quindi nella finale di pallacanestro, ha attirato 17,9 milioni di spettatori. Ora, siccome si dice che il calcio non sfonda negli Stati Uniti perché non c'è un campionato adeguato che trovi uno spazio televisivo tale da attrarre viewers, ecco, qui c'è qualche cosa che sta cambiando. Pensate che ESPN e ABC stanno registrando un numero medio di spettatori di 4,1 milioni a vedere questa Coppa del Mondo, un aumento del 23% rispetto alla Coppa del Mondo del 2010. Però, se il calcio attira più gente di quanto ne attiri la pallacanestro, chissà, forse può esserci anche un futuro per i campionati interni. Dunque il calcio in America, che è popolarissimo, è giocato dai bambini, 24 milioni di americani, pensate, giocano a calcio, 4,2 milioni di giocatori sono registrati presso la US Soccer Association, è il quarto sport di squadra più popolare, l'8,2% degli americani dice che il calcio è lo sport preferito, però non sfonda. Ecco, io credo che dopo questa Coppa del Mondo, soprattutto se gli Stati Uniti andranno avanti, forse qualche cosa potrà cambiare e l'America avrà un posto diverso nella mappa del calcio mondiale. Ed eccoci alla canzone del giorno. YouTube sta lavorando a un programma che farà una classifica dei programmi video music, quindi programmi video musicali che sono i più visti sul suo canale. Questo programma radio sarà trasmesso da Sirius, il primo episodio sarà l'11 luglio e questa settimana, dalle rilevazioni che aveva fatto YouTube, il video più visto è stato quello di Sam Smith con Stay With Me. E dunque ve la proponiamo, Sam Smith, Stay With Me. Stay. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!